Ora è sempre Valerio Evangelisti, è il titolo di una tre giorni che si svolgerà dal 14 al 16 aprile in tre luoghi diversi della nostra città e anche della provincia, un'iniziativa organizzata dall'associazione dedicata proprio allo scrittore. Noi ne parliamo con Paola Papetti che è al telefono con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto il senso di questa iniziativa. Allora, noi nasciamo veramente da pochi giorni come associazione Valerio Evangelisti, Sole dell'Avvenire, che raccoglie amici, soprattutto collaboratori. Daniela, che è diciamo l'erede anche del portato delle sue parole, quindi dei suoi libri, e vogliamo proporre una tre giorni a un anno della morte, non tanto per il ricordo che c'è sempre e soprattutto si può ritrovare all'interno di quello che ha scritto Valerio, ma per il rilancio delle tematiche che gli stavano care. E chiaramente lo facciamo con svariate realtà, prima di tutto perché questa sarà, come hai già detto, una tre giorni diffusa in vari posti della città, e non solo della città, andremo a vedere appunto che c'è anche Ponticelli di Malalbergo con la Casona, ma anche tramite svariati gruppi di persone importanti, come per esempio la redazione di Carmilla, che sono stati gomito a gomito collaboratori stretti di Valerio fino agli ultimi giorni, ma alcuni anche da tanto tanto tempo. Con un programma, come dicevamo, variegato e itinerante, cominciamo da venerdì 14 aprile, cosa succederà? Saremo in un posto chiave della città che vogliamo anche far scoprire nel nostro piccolo, che è l'archivio dei movimenti in via Vesella 5A, e dove parleremo di un libro che abbiamo fatto insieme qualche anno fa, che prendeva di mira Cofferati, era una sorta di finto libro di Philip K. Dick che si chiama Scorrete lacrime, disse lo sceriffo. Però saranno anche dei materiali autoctoni, cioè che stanno in questo archivio meraviglioso e che riguardano però proprio Valerio e le sue lotte. Quindi appunto in via Vesella ci troveremo verso sera, daremo un pochino il via ai lavori in quell'occasione e vedremo anche molte fotografie di Valerio, perché insomma abbiamo svuotato un pochino i cassetti e gli archivi per rappresentarlo in tutti i modi possibili. Sabato invece ci si sposta al VAG. Esattamente, al VAG ci sarà una presentazione di un libro che è L'insurrezione immaginaria, Valerio Evangelisti, autore, militante, teorico della paraletteratura, curato da Sandro Moiso e Alberto Sebastiani. Allora, Sandro Moiso è parte della redazione di Carmilla e nel libro ci sono anche alcuni interventi, molti interventi di redattori di Carmilla attuali, quindi sarà proprio un momento per parlare di Carmilla, da dove viene Carmilla, quindi di quello che c'è stato precedentemente come progetto memoria, per fare un esempio, oppure Carmilla quando veniva pubblicata su cartaceo con persone che partecipavano alla redazione di allora, insomma, però anche per rilanciare Carmilla a 20 anni, perché festeggiamo i 20 anni della nascita della webzine, quindi ci saranno parecchi Carmilli, come li chiamiamo noi, Sandro Moiso e Alberto Sebastiani, che è uno dei maggiori esperti di Evangelisti a livello italiano, che conosciamo bene qui a Bologna, per appunto fare un punto della situazione. Chiaramente anche VAG vorrà fare un piccolo ricordo di Valerio, ma poi nel pomeriggio ci sarà una cosa per noi molto importante, che è il ricordo dei lettori. Perché? Perché Valerio i lettori se li teneva ben stretti e quindi aveva creato questa cosa meravigliosa di scambio quotidiano, perché per lui non erano solo i lettori, quindi lui si metteva da bravo magister, come lo chiamiamo noi, in cattedra, ma collaborava quotidianamente quasi con i suoi lettori tramite questa lista, mailing list, che aveva poi dei raduni fisici annuali prevalentemente, oppure in occasione delle presentazioni dei suoi libri. E oggi questa lista di una sorta di famiglia parallela, chiamiamola così, noi l'abbiamo chiamata l'armata dei lettori, racconterà Valerio soprattutto nella sua socialità, nel suo essere anche una persona coinvolgente, comunque spiritosa, comunque che aveva molto da dare da un punto di vista anche proprio umano, ecco, mettiamola così. Poi ci andiamo sarà anche la proiezione di un film, giusto? Esattamente, sì, andremo avanti la sera poi con musica e una proiezione, perché Valerio anni fa scrisse questo libro sul sindacalismo americano, su un movimento sindacale americano specifico che era One Big Union, il libro, e il movimento quello degli Wobblies, e ci prestò questo documentario The Wobblies, Stuart Bird e Deborah Schaffer, che noi abbiamo sottotitolato, e quindi in questa occasione renderemo disponibili i sottotitoli e chiaramente faremo una proiezione sottotitolata ad hoc. Però prima ci sarà un pochino di musica, perché il duetto Mars on Pluto, ovvero David Sarnelli e Margherita Valtort, volta suoneranno in acustico le musiche del Sole dell'Avvenire. Certo. E quindi insomma ci sarà questo breve momento musicale che già era stato organizzato con Valerio, quindi qualcosa di estremamente interno alla sua opera, perché moltissimi libri, soprattutto quelli dell'ultima produzione, includono delle canzoni proprio nel testo. La domenica invece, l'ultimo giorno, ci si sposta alla casona di Ponticelli. Anche qui, come per Vaghe, come per l'archivio dei movimenti, noi abbiamo voluto prima di tutto coinvolgere le realtà, no? Ma soprattutto invitare tutti a venire a vedere queste realtà. Ricordo, è importante che tutti gli ingressi sono gratuiti. Chiaramente ci sono dei pranzi e delle cene che vanno, questo alla casona, il pranzo è a prenotazione, quindi appunto invito a prenotare, adesso non so se darvi telefonicamente oppure cercate banalmente l'evento Facebook sul nostro sito per chi voglia partecipare a prenotare il pranzo alla casona, per questioni logistiche banalmente, alla casona si mangia benissimo, chiunque c'è mai stato lo sa perfettamente. Nel pomeriggio avremo un reading dell'attrice Alessia Passarelli, tratto dal Sole dell'Avvenire, che ha del ferro del pane, che fra l'altro si ambienta quasi proprio in quelle zone, con le lotte del Gallo Rosso delle Mondine. Quindi saremo proprio in piene lotte, in piene rivendicazioni, soprattutto femminili, di una dignità del lavoro, però tramite le parole dirette di Valerio, è un'attrice molto brava che le interpreterà in questo reading. Inoltre avremo appunto il pomeriggio, forse il pezzo forte di questi tre giorni, perché se andate poi a vedere i nomi, sono piuttosto importanti. Perché? Perché? Perché Valerio non solo aveva un rapporto con i lettori, ma aveva anche tracciato, diciamo, delle collaborazioni con dei suoi colleghi, giustamente, negli anni, tramite i suoi scritti, la sua attività con Carmilla, quello che poi era appunto partecipare a svariati eventi insieme ad altre persone, carteggi quotidiani e quant'altro. Oggi ragioniamo su rivoluzionare la letteratura, cioè utilizzare la letteratura, soprattutto di genere, perché parliamo di Evangelisti ma non solo di lui, adesso vedrete i nomi, per far riflettere le persone, per creare contropotere banalmente e per risvegliare la coscienza delle persone. Questa era la finalità un pochino di quello che faceva Valerio durante l'arco di tutta la sua esperienza come scrittore, e ne parleremo con persone che noi abbiamo individuato e si sono proposte, perché devo dire l'adesione è stata meravigliosa. Avremo Lucarelli, Carlo Lucarelli, Giuseppe Genna, Serge Quadrupani, Vominguno, Nicoletta Vallorani, Franco Ricciardiello, Loriano Machiavelli, Emanuele Manco, Nico Gallo e Roberto Strum e Luca Masali. Quindi insomma avremo tante voci differenti, un paio saranno in video perché Quadrupani chiaramente sta in Francia, quindi parteciperà tramite un video, però al di là di questo avremo anche proprio fisicamente presenti degli ospiti che saranno con noi per parlare della funzione rivoluzionaria della letteratura. Quindi speriamo che appunto, magari complice il tempo, ma c'è anche tutta una parte della casona che è un posto da visitare, comunque sia al coperto, e quindi si farà comunque, però ragion di più se sarà una bella giornata vi invitiamo a venire a vedere appunto che cosa queste persone hanno da dire. Si finisce però con due cose importanti, un ricordo dell'avvocata Marina Prosperi di Cesare Battisti, perché Marina è l'avvocata di Cesare Battisti e porterà un ricordo di Cesare di Valerio, e a seguire avremo in Abbat in versione semiacustica, anche loro hanno aderito veramente con piacere a questa iniziativa. Direi che è una tre giorni molto piena e molto interessante, e insomma io vi invito ad andare a cercare anche su Facebook l'evento Ora è sempre Valerio Evangelisti per vedere il programma completo. E vi invito a seguire la pagina Facebook dell'associazione, sì, che è Associazione Valerio Evangelisti e Sole dell'Avvenire, lì ci sono tutti i dettagli, se volete poi scriverci, insomma siamo lì. Grazie mille. Grazie a voi, buona giornata.